e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Il tuo è un rosso relativo. È l'infiammazione del momento, quella che occupa la pagina dei giornali, che si infila nei notiziari dei TG, quella su cui tutti vogliono vederci chiaro. Parliamo di uveite, l'infiammazione che interessa l'uvea, ovvero lo strato intermedio del bulbo oculare, quello per intenderci situato tra la retina e la sclera, quella che noi chiamiamo come bianco dell'occhio. Ne parliamo oggi prendendo spunto dal ricovero di Silvio Berlusconi, che per la seconda volta si trova a confrontarsi con questo fastidioso problema. Berlusconi ha ricevuto una diagnosi in modo tempestivo, ma ci sono può capitare che l'uveite venga trascurata, non portata all'attenzione del medico perché sottovalutata dallo stesso paziente e affrontata un po' come una congiuntivite, seppur abbastanza aggressiva. Oggi abbiamo il piacere di avere con noi il professor Francesco Bandello, direttore della clinica oculistica dell'Università Vita Salute, Istituto Scientifico San Raffaele di Milano. Professore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora, resterà a nostra disposizione sino alle 11.45. Allora, professor Bandello, intanto Deborah le racconta che cosa si perderà andando via alle 11.45. Ma magari rimane ad ascoltare, qualora abbia degli immobili dati in affitto, in locazione, nella seconda parte del nostro programma, quindi nella nostra pagina di denari. Torniamo alle scadenze del nostro autunno caldo. Novembre è tipicamente, Nicoletta, magari potremmo fare una trasmissione su questo termine, l'ingorgo fiscale abbiamo. Sì, aspetta, devo pensare che cosa... Fatti venire in mente qualcosa insieme. Di eccitante. Insomma, un mese certamente caldo per le tasse. Entro il primo dicembre, fra tutte quelle che vanno versate, c'è anche il saldo della cedolare secca, la tassa piatta, la tassa unica che paga chi è proprietario di un immobile e lo affitta. Allora, ai nostri ascoltatori chiediamo, se siete tra questi, se avete scelto la cedolare, vi conviene? A tutti i vostri dubbi in materia di affitti parleremo anche di mercato delle locazioni e di incombenze fiscali e risponderemo alle vostre domande a partire dalle 11.45. 800240024, iniziate a prenotare i vostri interventi. Momenti di gloria, te la ricordi che film altro magnifico? Che, altro che. E Deborah, anche l'uveite ha i suoi giorni di gloria e torna a far parlare di sé. Non è la prima volta che l'ex premier viene ricoverato per questo problema agli occhi, era già successo nel marzo dell'anno scorso, nel bel mezzo del processo Ruby. Professor Bandello, è un'infiammazione l'uveite che può manifestarsi all'improvviso e che può anche tornare? Anzi, tipicamente torna, nel senso che è una malattia cronica che alterna periodi in cui tende ad andare in letargo con periodi in cui tende a riaccendersi ed a riacutizzarsi. Poi, in alcune particolari forme, gli intervalli liberi tra un periodo di crisi e l'altro possono ridursi di lunghezza, per cui quelli che erano degli episodi che si ripetevano una volta l'anno o a distanza di anni, poi diventano degli episodi sempre più frequenti e assume delle caratteristiche che diventano quasi croniche, continue. Sì. A me ci tengo a dire una cosa, perché è utile ogni tanto che una persona molto famosa, molto importante abbia un qualcosa di pertinente la salute, perché diventa l'occasione buona per fare informazione. Sì, diventa quasi testimonial, no? Sì, ed è con questo spirito che secondo me questa trasmissione ha una sua ottima ragione di essere. Speriamo di riuscire a fare informazione su di una malattia che è meglio conoscere piuttosto che ignorare. Piuttosto che per parlare dell'episodio di uveite del presidente Berlusconi, che onestamente non credo... Certo. Insomma, ci debba interessare. Lo spunto ce l'ha fornita, perché è una malattia che ha dei sintomi che sono molto fastidiosi, ma che perché chi non ha avuto magari l'occhio rosso, ma ha sentito questa sensazione di corpo estraneo, il dolore, e uno cerca un po' di attrezzarsi, non andiamo subito come prima cosa dall'oculista. 800 24 00 24. Professore, proprio per fare chiarezza, ci sono molti modi di classificare le uveite in base all'area colpita, ovvero alla parte, no, dell'uve interessata, in base al decorso clinico, ci sono quelle acute, quelle croniche, ma anche in base alle cause che la originano, che sono tante diverse. Ci aiuta a conoscerle per metterci nella condizione di fare una buona prevenzione, nel caso naturalmente in cui è possibile farla. Ci sono ad esempio persone che rischiano più di altre, magari chi porta lenti a contatto oppure chi è soggetto a congiuntivite ripetute. Ipotizzo, la butto lì. La cosa delle lenti a contatto mi interessa particolarmente. Professore. Allora, diciamo, in linea di massima, innanzitutto per chiarire le idee a chi ci ascolta, come lei giustamente ha detto all'inizio, l'uvea entra a far parte della parete oculare ed è la membrana intermedia. All'esterno c'è la sclera, che è quella rigida, bianca, che è un tessuto fibroso molto consistente, che davanti poi diventa trasparente e forma la cornea. Nella parte intermedia c'è questa uvea, nella parte più interna invece c'è la retina. Allora, l'uvea è fatta da tantissimi vasi, è molto ricca di vasi, è come una spugna piena di vasi. Questo fa sì che sia un tessuto importantissimo per portare nutrimento alle membrane oculari, ma è anche la sede dove possono determinarsi con maggiore facilità i processi infiammatori, per esempio, perché è attraverso il sangue che le sostanze e le cellule che concorrono a determinare l'infiammazione possono arrivare. Sì. Ed è questo il motivo per cui l'uvea diventa una sede elettiva di localizzazione di processi infiammatori. Si chiamano uveiti in generale i processi infiammatori che colpiscono l'uvea. Poi in effetti si possono distinguere delle uveiti posteriori, delle uveiti intermedie, delle uveiti anteriori. Qua entriamo in un campo, diciamo, un po' troppo specialistico, però in linea di massima il concetto è che la infiammazione dell'uvea può trovare localizzazione da parti differenti. In altri casi poi le forme più gravi si infiamma tutta l'uvea. In generale è una malattia molto più grave rispetto alla congiuntivite, rispetto ai problemi banali che possono coinvolgere la parte più esterna dell'occhio. È una cosa meno banale perché può arrivare a produrre delle conseguenze molto maggiori, soprattutto se non riconosciuta, se non curata adeguatamente nel momento opportuno. E i sintomi che consentono di riconoscerla sono, prima di tutto, il dolore. La congiuntivite, a ben guardare, che è la malattia con la quale si può più facilmente confondere l'uveite, la congiuntivite determina più una sensazione di corpo estraneo, di granello di sabbia negli occhi, di qualcosa che non va, piuttosto che il dolore vero e proprio. Tant'è vero che all'oculista che impara a fare il suo mestiere si insegna che quando il paziente dice ho dolore all'occhio, gli si deve poi fare sempre una seconda domanda: ma lei è sicuro che lei ha veramente dolore o non sta riferendo come dolore ciò che è semplicemente una sensazione di corpo estraneo? Spessissimo, e sempre quando si tratta di una congiuntivite, il paziente ti dice ah sì, è vero, però non è vero dolore, ma piuttosto è un senso di corpo estraneo, di granello di sabbia negli occhi. In generale queste sensazioni di corpo estraneo sono da riferire a problemi più banali, e viceversa il dolore vero e proprio nel caso dell'occhio è un qualcosa che deve far pensare a delle malattie più importanti, qualcosa di meno banale rispetto alla congiuntivite. C'è poi il rossore, la lacrimazione, sono tutti i sintomi di cui parleremo oggi insieme al professor Bandello per cercare di capire se sono dei segnali che ci allertano e quindi ci segnalano, scusate il bisticcio di parole, la ripetizione, un malessere dell'occhio, un disturbo, oppure possono essere segni di affaticamento visivo. Abbiamo già molti ascoltatori che esatto. Si mettono in contatto con noi. Volevo sia al 349-238-6666, c'è un ascoltatore che Francesco, dice esatto, in poche parole avete detto tutti i sintomi che mi attanagliano particolarmente in alcune stagioni, giusto? Da primavera all'autunno. Quindi chiamate se i vostri occhi sono stanchi, se si arrossano, se lacrimano, se avete questa sensazione di stanchezza, l'occhio pesante, come scrive un nostro ascoltatore. Cercheremo di vederci chiaro. Allora sentiamo qual è il problema che invece ha Gianluca da Brescia. La prima telefonata di oggi all'800 24 00 24. Gianluca, benvenuto. Pronto? buongiorno, grazie. Eccoci. Innanzitutto complimenti per la trasmissione che seguo regolarmente. Bravo, bravo. Le piacciono tutti i temi, cuore e denari naturalmente. Esattamente. Ascolto proprio dall'inizio alla fine, quindi sì, prendo sia il cuore che il denaro. Oh, bene. Io ho un problema agli occhi, nel senso che non ho un dolore in verità, perciò direi che l'uveite posso escluderla, però ho sempre gli occhi arrossati più o meno tutto l'anno, nel senso magari in alcune stagioni tipo in estate sono molto più sensibili, però sono sempre arrossati, lacrimano, molto sensibili al vento, all'aria. Ho fatto anche dei controlli, ma non è uscito insomma, niente di particolare. E quindi volevo capire insomma come fare a risolvere questo problema. Quale può essere? È un fastidio. Sì, è un fastidio. Gianluca, quindi il suo è il problema dell'occhio rosso. Mm-hmm. Possiamo passare, sintetizzare così? Lacrima. Rosso con lacrima, il professor Bandello. Un po' come il vino. Ecco. C'è un vino marchigiano che si chiama La Lacrima ed è un rosso. Vedi? Ah. No, il colore degli occhi del signor Gianluca com'è? Chiaro, ecco. Gianluca, com'è? Di che colore ha gli occhi? Azzurri. Volete avere gli occhi azzurri? Un pochino bisogna soffrire. Bravo. No, è così, nel senso che in generale la sintomatologia che ha riferito Gianluca, cioè quella di una persona con una particolare sensibilità alla luce, agli agenti irritanti e con frequenti fenomeni di arrossamento associati alla lacrimazione, piccoli segni di irritazione, è prerogativa di chi ha poco pigmento. Il pigmento serve a proteggerci, ha la capacità di assorbire le radiazioni ultraviolette, ha la capacità di ridurre l'effetto irritante della luce e quindi in linea di massima chi ha gli occhi scuri è in genere meno prono a questo tipo di manifestazioni irritative. Primo. Secondo, ciascuno è fatto a modo proprio, c'è chi ha la pelle che si irrita di più, chi ce l'ha che si irrita di meno, ognuno è fatto a modo suo e non è raro che chi dice io ho sempre gli occhi rossi poi in effetti non abbia una vera malattia, ma abbia semplicemente una modalità di reazione al rapporto con gli agenti esterni che porta ad avere questo tipo di arrossamento oculare. Non necessariamente una malattia, intendo dire, spesso è semplicemente meno male. Una sensibilità, un modo di essere, una particolare sensibilità. Lei ha parlato al plurale, professor Bandello, gli occhi, ma se a essere rosso è solo uno? È sempre molto più importante, sempre una cosa a cui prestare molta maggiore attenzione, perché se l'arrossamento coinvolge un solo occhio, in generale è una cosa più importante, c'è qualcosa che non va, e quel qualcosa che non va può essere una banalissima, il ciglio piuttosto che il corpo estraneo banale che si può far andare via già con qualche lavaggio o con delle gocce di lacrime artificiali, così come può trattarsi di qualcosa di molto più importante che merita una considerazione da parte dello specialista. Avremmo voluto intitolare questa parte di cuore della puntata con Deborah con sviste o problemi di vista, perché oggi vogliamo proprio portare all'attenzione del professor Bandello tutta una serie di segnali che vanno dal dolore al fastidio alla luce, dal rossore, dalla lacrimazione, dalla visione annebbiato sdoppiata, dalla stanchezza alla lettura, che sono sintomi abbastanza comuni che configurano anche quello che viene descritto come affaticamento visivo. Professor Bandello, lei ci ha già aiutato a capire alcune cose, ad esempio anche il nostro ascoltatore ha detto non ho dolore quindi non ho l'uveite. Un'altra indicazione che lei ci ha dato è solitamente la congiuntivite si presenta come quella sensazione di sabbia nell'occhio, quel corpo estraneo. Allora ci aiuta allora con la stessa chiarezza a capire se i nostri occhi sono affaticati e quindi possiamo giustificare quella sensazione di stanchezza, quel bisogno di stropicciarci un po' gli occhi, o se invece c'è un problema più serio? Allora io colgo l'occasione da partire da questa considerazione che ha fatto lei per dire una cosa che penso sia utile dire in una trasmissione come questa, cioè gli occhi sono fatti per vedere e in linea di massima il concetto per cui li si debba far riposare è sbagliato. Spesso il paziente è portato a ritenere che per salvaguardare l'integrità dell'apparato visivo non bisogna affaticare gli occhi, non bisogna usarli, bisogna tenerli a riposo. Questo è un concetto sbagliato. Se uno vuole che le gambe stiano bene, deve camminare, giusto? Sì. Non vuole, no? Sì, non si può immaginare di salvaguardare l'integrità di un organo non facendolo funzionare, anzi lo devi far funzionare bene per ottenere da quell'organo il massimo della performance possibile. Lo stesso discorso vale per gli occhi, quindi il concetto che uno debba tenerli a riposo è sbagliato. Poi è ovvio che se tu utilizzi molto gli occhi e se mai hai un problema banale, un difetto di vista non corretto, qualcosa di non importante, questo qualcosa che è lontano dalla perfezione fa sì che tu ti accorga del problema molto di più se gli occhi li utilizzi molto, per cui alla fine della giornata se tu non porti la correzione ottica che dovresti portare, sei stato tutto il giorno davanti al video terminale o a leggere, ti rendi conto che hai gli occhi molto più stanchi, che sei stanco, che ti fa male la testa. Ma queste sono conseguenze del fatto che quell'impegno visivo è stato portato avanti con una correzione inadeguata, senza avere gli occhiali giusti che servono a vedere bene. Questo accade soprattutto, per esempio, quando si comincia a invecchiare, si superano i 40 anni, si inizia ad avere bisogno di integrare l'accomodazione che si sta depauperando fisiologicamente con una correzione ottica adeguata. Il paziente non l'ha ancora fatta, tenta di tirare avanti senza bisogno degli occhiali, di allungare le braccia, di allungare le braccia o allontanarsi dal video terminale, arriva alla fine della giornata che non ce la fa più, c'ha la lacrimazione, c'ha gli occhi rossi, ha un senso di stanchezza. Quindi diciamo, e quindi come se noi corressimo con le scarpe strette, bravissima, no? Sì, vuol dire stai cercando di fare delle cose che il tuo apparato visivo non è più in grado di fare e te lo fa notare, giustamente. Quindi diciamo una raccomandazione è, quando si arriva a 40 anni, se vogliamo alla fine il dare un messaggio utile, alla fine quando si arriva a 40 anni è opportuno che il paziente una visita oculistica la faccia. Quello è un momento importante della vita in cui vale la pena di vedere con un oculista che tutto stia mirando il tagliando. Una visita recente, il medico che mi stava controllando appunto la vista per la necessaria correzione delle lenti, perché avvertivo il fastidio, mi fa, per non chiedermelo direttamente, ma signora, quanti anni ha? No, per capire se adesso anche la lettura da distanza ravvicinata le difficoltà. Non voleva chiedermi quanti anni avessi, in sostanza. Siete sempre così galanti, dottore? No, soprattutto no, con le signore, andate lì. Ma no, ma non è vero, professore. No, io mai. Ah, chiede proprio senza, allora, senza problemi. Chiediamo gli anni ad Angelo, che ci chiama da Isola d'Elba. Possiamo chiederglielo? Buongiorno. Sì, buongiorno. 47, tanto sono un uomo, quindi non è. Allora, Angelo, che succede? Da un pezzo in qua, la sera soprattutto, l'occhio destro mi lacrima copiosamente. Evito di toccarlo con le mani sporche. Cerco magari di usare il palmo della mano, però diventa quasi un tic poi. E la mattina mi sveglio con l'occhio pieno di cispie, l'occhio destro. Allora diciamo, prego, scusi. Sì, no, dico, è una cosa molto fastidiosa, in concomitanza con questo fenomeno c'è anche un affaticamento della vista, probabilmente il computer, il telefonino, eccetera. Però insomma è una cosa molto fastidiosa e non ho e che ancora ha voluto raccontarla a noi per sapere che cosa ne pensa il professor Bandello. Direi che ha fatto un'ottima cosa. Professor Bandello, prima di andare ai mercati, lei riesce a darci una risposta rapida? Sì, poi io consiglierei sicuramente al nostro amico dell'Isola d'Elba di farsi controllare, di farsi vedere, perché diciamo potrebbe avere una congiuntivite cronica, potrebbe avere un'infiammazione cronica, sicuramente non un'uveite da per come lo descrive. Però vale la pena che un controllo venga fatto, perché non sono i sintomi banali di una bilaterale irritazione degli occhi, mi sembra qualcosa di più specifico, monolaterale specifico. A novembre la città si accende in un istante, il mio corpo più che si accende in questo periodo si allaga alla grande la città, insomma abbiamo già superato la metà di questo mese, non pensate però di poter archiviare questo autunno di scadenze fiscali. Vi abbiamo avvisati che sarebbe stato pieno di appuntamenti come ogni anno. Oggi nella seconda parte della nostra trasmissione ci concentriamo sul pagamento del saldo della cedolare secca, la tassa unica sugli affitti, quindi orecchie ben tese per tutti coloro che hanno un immobile di proprietà, l'hanno messo in affitto, avete scelto l'opzione della cedolare secca o pagate ancora le singole voci voci, IRPEF, addizionale, imposta di bollo, imposta di registro. Trovate conveniente dare in affitto una casa? 800 24 00 24 e iniziate a prenotare su questo tema le vostre domande. Noi automobilisti siamo massacrati. Tu stai viaggiando in autostrada di notte, da ore, distrutto dalla fatica, pagheresti di tutto per avere un letto e loro ti scrivono Motel Agip, 420 km. Ma cosa mi frega di sapere che domani alle 4 del pomeriggio ci passo davanti? Io devo dormire adesso. Passate molte ore alla guida o davanti al PC, siete sempre connessi, controllate con una certa frequenza tablet, smartphone e compagnia? Avete gli occhi pesanti, stanchi, lacrimano, bruciano, avete la sensazione di avere un corpo estraneo, la sabbia negli occhi? Ne abbiamo parlato col professor Bandello, che è qua in linea con noi. Professore, siamo... Ci sono. Oggi vogliamo vederci più chiaro, vogliamo capire se il problema che riferiamo è una svista o un problema di vista. Ci sono dei segnali che i nostri occhi ci mandano, professore, che non vanno trascurati né autogestiti. Ci aiuta a vederci più chiaro? Beh, sicuramente il fatto di non riuscire a vedere bene, il primo segno del fatto che le cose non vanno bene con gli occhi, e rendersi conto che la propria performance visiva non è quella che si era abituati ad avere. Perché questo lo si possa apprezzare, talora è necessario e indispensabile che il paziente chiuda un occhio alternativamente rispetto all'altro, perché quando si utilizzano i due occhi contemporaneamente accade, e non è raro, che la funzione visiva dell'occhio che sta funzionando meglio non faccia rilevare, non faccia apprezzare dal paziente i problemi che invece si stanno determinando nell'occhio che vede meno bene. Quindi ogni tanto potete farlo, se non siete alla guida naturalmente potete chiudere un occhio, guardate quello che vi sta intorno, chiudete l'altro, guardate e confrontate. Sì. 800 24 00 24, quindi questa è la prima indicazione. Professor Bandello, poi lei aveva anticipato se il problema viene riferito ad un solo occhio. Certo, diciamo in linea di massima i problemi banali, le congiuntiviti, le irritazioni sono più spesso bilaterali. Quando il problema è monolaterale, soprattutto se associato a dolore, allora la cosa di solito ha un'importanza maggiore. E in linea di massima un concetto utile da conoscere è che il dolore oculare, laddove per dolore si intenda il vero dolore, eventualmente irradiato anche all'emicranio, all'arcata orbitaria, è in generale associato con dei problemi oculari più importanti. Per cui in presenza di un dolore oculare è sempre opportuno che l'oculista abbia la possibilità di verificare come stanno le cose. Terzo e ultimo sintomo è l'arrossamento. E di arrossamenti ce ne sono vari tipi. C'è l'arrossamento diffuso bilaterale, che è tipico della congiuntivite, c'è l'arrossamento che invece è circoscritto intorno all'iride, con la formazione di una specie di anello di arrossamento, sì, che noi chiamiamo perichieratico, che significa intorno alla cornea. Ebbene, questo è di solito significativo di un'irritazione più importante, vuol dire che c'è un'irritazione che coinvolge i tessuti più profondi, e appunto l'uvea, argomento di cui oggi ci stiamo interessando. Vedi quante cose impariamo col professor Bandello, che è chiarissimo. Professor Bandello ha un solo difetto: non viene mai qua a trovarci, deve venire in studio qualche volta. Ma lei mi fa venire voglia di venire veramente. Bravo professore, noi l'aspettiamo, vede, io l'ho invitato mille volte a venire qua, non può mai, adesso ci verrà perché lo invita Deborah, così no, poi, no. Così poi io e Deborah litigheremo. No, venga qua professore. Allora andiamo ai nostri ascoltatori, adesso continuiamo sul tema dell'uveite, siamo partiti da questo problema e sentiamo Fulvio da Milano, a cui diamo il benvenuto. Sì, buongiorno. Buongiorno. A tutti. Niente, volevo soltanto chiedere questa cosa. Io mi sto curando con un collirio perché ho la pressione degli occhi al limite, cioè nel senso non è alta, però è tendente all'alto. È lì, un po' borderline. Esatto. E quindi ultimamente ho avuto una congiuntivite, forse causata anche da medicinali per l'influenza che ho avuto, eccetera. E volevo sapere se avevo un nesso appunto su questa cosa qua. Come si misura la pressione dell'occhio, Nicoletta? Professor Bandello, è una misurazione molto importante. Quando il professor Bandello diceva fatevi controllare, l'oculista è in grado anche di misurare la pressione dell'occhio, che è un fattore di rischio per patologie oculari molto serie. Professor Bandello, ha risposto correttamente? Bravissima. Perché? Laureata in oculistica sul campo. È vero. No, la pressione dell'occhio viene misurata con una manovra assolutamente indolore che dura un attimo, ed è una manovra che consente di misurare la pressione oculare che, e questa è la cosa più importante, può essere alta determinando dei danni all'occhio e in particolare al nervo ottico senza che ci siano altri sintomi. Come proprio la pressione arteriosa. Come la pressione arteriosa, il killer dell'occhio, si dice, a proposito del glaucoma, che è la malattia in cui la pressione oculare è più alta, proprio perché uccide gradualmente la porzione nervosa, le fibre nervose dell'occhio, senza che il paziente abbia la possibilità di rendersene conto. E ahimè ci si rende conto del problema solo quando il problema è andato molto avanti, il campo visivo si è ridotto, quale inevitabile conseguenza del danno del nervo ottico, il paziente comincia a sbattere contro tutto ciò che sta intorno perché il suo campo visivo si è ridotto a un campo visivo tubulare, come quando si guarda attraverso un binocolo. Ed è una condizione di gravissimo handicap visivo, molto invalidante, ma di cui non ci si rende conto proprio perché insorge con modalità talmente graduali, giorno dopo giorno, senza che la pressione oculare, che è un po' più alta di quello che dovrebbe essere, dia altri sintomi. Ed è questo il motivo per cui è importantissimo a 40 anni, come diceva giustamente Nicoletta, misurarla. Il nostro ascoltatore chiedeva se poteva esserci una relazione, no, con l'IRI che utilizza. Può succedere, ci sono dei colliri, adesso è inutile fare nomi commerciali, no? Ma ci sono delle categorie di colliri, dei gruppi di colliri ipotonizzanti oculari che hanno tra i propri effetti collaterali proprio quello di determinare un'irritazione oculare, o addirittura possono cambiare il colore delle ciglia o addirittura cambiare il colore dell'iride. Sono dei colliri estremamente efficaci dal punto di vista dell'abbassamento della pressione oculare, ma che proprio a causa di questi effetti collaterali talvolta risultano incompatibili con la terapia in alcune persone. Allora, professor Bandello, io aprirei una brevissima parentesi sui colliri. Ne consumiamo a fiume per calmare il rossore, per lenire il bruciore, ma non sempre il colliri è la soluzione, anzi in alcuni casi può diventare il problema. Ci dà una dritta quando il collirio sì e quando il collirio no? Allora, diciamo in linea di massima un concetto da fare proprio è che non si deve mai instillare in modo arbitrario, senza che ci sia un oculista che te l'ha prescritto, un collirio che contenga del cortisone. Il cortisone, come sapete, è uno dei principi attivi più importanti in medicina e anche in oftalmologia, anche in oculistica, perché quando tu instilli il cortisone stai meglio. Sì. Non c'è dubbio, qualsiasi cosa tu abbia, quando metti il cortisone le cose vanno meglio, e si instauria spesso tra paziente e collirio cortisonico un rapporto di dipendenza, quasi di tossicodipendenza. Perché? Perché poi a un certo punto il cortisone, se non somministrato con le dovute modalità, comincia a dare i suoi effetti collaterali, che nel caso dell'occhio sono la cataratta da cortisone e l'aumento della pressione oculare. Se tu continui a utilizzare questi colliri senza la verifica periodica adeguata da parte dello specialista oculista, rischi queste conseguenze. Quindi cosa succede? Che il paziente, se mai c'ha l'arrossamento oculare, va semmai in farmacia e gli viene dato un collirio che si intende debba essere preso per pochissimi giorni, invece il paziente comincia a metterlo, si rende conto che va bene, lo continua a mettere a lungo. Perché squadra chi vince non si cambia, si pensa solitamente. E a quel punto così ti ritrovi con gli effetti collaterali e le complicanze di una terapia che doveva essere fatta con modalità molto più oculate, appunto come si conviene per una cosa oculistica. I colliri che invece possono essere messi in modo sereno, e su questo avrei garanzia di non dimenticare i casi in cui le cose vanno storte, voglio dire sono talmente pochi che insomma sono insignificanti, sono le lacrime artificiali. Sì. Quelle possiamo utilizzarle senza problemi. Perfetto, possono essere utilizzate senza problemi, meglio se quelle nei flaconcini monouso, perché non contengono conservanti e quindi hanno possibilità di dare effetti collaterali pari a zero. Ecco, quello è il collirio che se non c'è una valutazione specialistica, se non c'è un parere dato da una persona che faccia di mestiere l'oculista, è sicuramente il collirio che si può mettere serenamente. Ecco, non fanno danno assoluto. Non fanno danno. Ecco. Professor Bandello, allora guardi che ormai ce l'ha promesso, eh? Ma la sì. campagna Non perdiamoci di vista, non vuoi ricordarla? La vogliamo ricordare. Ricordiamo la campagna Non perdiamoci di vista, è una campagna promossa dall'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità. Voi andate sul sito, troverete anche tutta una serie di appuntamenti per visite e controlli. L'Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità è amica di Cuore Denari, la radio è la radio ufficiale degli ipovedenti e non vedenti, quindi la ricordiamo con piacere. Salutiamo il professor Bandello, che ha promesso di venire qua la prossima volta in carne e ossa. Ormai ha fatto. Adesso non è che speriamo che qualche altro politico abbia problemi di vista, perché non siamo così proprio cattive, però ci auguriamo qualche tema di attualità che ci consenta di invitarlo. Grazie. Grazie a lei. Grazie al professore. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Se potessi avere 1.000 euro al mese, senza esagerare, sarei certo di trovare tutta la felicità. E stiamo vedendo in questi giorni come l'emergenza abitativa stia cominciando a diventare davvero preoccupante in molte città, fino alle estreme conseguenze di occupazioni di case altrui, sgomberi forzati. In questi giorni Milano è al centro della cronaca nazionale, Roma anche, situazioni che effettivamente scoraggiano molto spesso molti proprietari dal decidere di dare la loro proprietà in affitto. Eppure questo è un mercato, quello delle locazioni, vivace, interessante e molto movimentato anche dal punto di vista fiscale. Oggi dobbiamo ricordare un'altra scadenza ai nostri ascoltatori, quella del 1 dicembre, termine entro cui va versata la seconda rata della cedolare secca sugli affitti, cioè la tassa piatta sui redditi da locazione. Ci rivolgiamo quindi oggi ai, chiamiamoli così, padroni di casa. Esatto, coloro che essendo proprietari di un immobile traggono da questo un guadagno, un reddito, ma non mancano le spese, a cominciare appunto dalle tasse. Mercato degli affitti e tasse sulle locazioni, insomma i temi di oggi per la pagina di Denari. Salutiamo Isabella Tulipano, responsabile comunicazione di Solo Affitti, benvenuta. Grazie, buongiorno a tutti. Se ce la fa ad arrivare alla fine della trasmissione, l'abbiamo portata un po' costipata. Adesso le do un po' di erisimo. Ci puoi presentare le echinacee? Qui non va bene. No, adesso le darei un po' di erisimo, ma solamente per il momento in cui la voce va giù. Benissimo. E qua non, ti ricordi ci sono anche i rimedi, meglio di così. Esatto, questa è una trasmissione non della nonna, però no, attenzione. No, chiamiamo, i rimedi della nonna sono efficaci, ma facciamo la trasmissione anche su quelli. Sì, alcuni hanno proprio il placet della scienza. Non c'è rimedio della nonna che tenga per la cedolare secca che entro il 1 dicembre dobbiamo pagare. Su questo ci dirà tutto Gianni Marchetti, responsabile della formazione di AGEFIS, l'associazione dei geometri fiscalisti. Lei come sta a voce stamattina? Tutto bene? Bene, bene, normale, normale. Ci dica dove ha male, come i bambini, dimmi dove hai male. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che ci sono, eccomi che parto io, due modi per pagare le tasse sull'affitto che si riscuote dal proprio inquilino e che questa opzione è attiva dal 2011, quella della cedolare secca. Vediamo, sentiamo anzi un rapido promemoria. Chi percepisce un reddito mettendo in affitto il proprio immobile ha due possibilità per pagare le tasse su questo guadagno. L'ultima arrivata è la cosiddetta cedolare secca, introdotta nel 2011. Soprannominata tassa piatta, può sostituire la più composita formula tradizionale, che prevede IRPEF, l'addizionale comunale e regionale, l'imposta di registro e l'imposta di bollo. Al loro posto un unico versamento pari al 10% dell'affitto annuale per i contratti di locazione a canone concordato e al 21% in tutti gli altri casi. La cedolare secca si versa in due rate tramite modello F24. La prima entro il 16 giugno e la seconda entro il 1 dicembre. Sotto una certa cifra può essere pagata in un'unica soluzione. 800 24 0024, il numero verde a vostra disposizione. Raccontateci se siete proprietari di una casa che avete messo in affitto, siete soddisfatti di questa scelta, non tanto dell'aver messo l'abitazione appunto in affitto quanto di aver scelto magari la cedolare secca come opzione fiscale. Raccontateci appunto se avete scelto questo regime o quello tradizionale. Prima della cedolare però vorrei fare un punto sul mercato, mettendo in evidenza gli ultimi dati del rapporto sulle locazioni 2014 di Solo Affitti, che ricordiamo è un grande franchising immobiliare, leader in Italia nella locazione, 350 agenzie sparse su tutto il territorio. Dottoressa Tulipano, quali sono i dati più rilevanti? Come sta andando? Sì, diciamo che anche per quest'anno abbiamo registrato un calo generale dei canoni di locazione di un meno 1,7 a livello nazionale, con però alcune particolarità dovute soprattutto al fatto che a Milano registriamo una sorta di effetto Expo, quindi come dire, ci sono molte più offerta e anche domanda, e questo trascina i canoni in su in un più 6,7%, che è davvero un'anomalia rispetto al meno 10 quasi di Bari o di altre città, e un meno 5,5 per esempio di Roma, mentre vanno verso la stabilizzazione anche città come Firenze e Bologna. Dobbiamo notare che comunque appunto questa è veramente un trend degli ultimi 9 mesi. A Milano appunto pensiamo per questa vivacità particolare del mercato, negli ultimi 5 anni in realtà abbiamo continuato a registrare un calo dei canoni che mediamente è stato di un meno 12,5 in 5 anni, quindi i canoni si sono ridotti sicuramente. Questo calo è dovuto al fatto che i prezzi erano negli anni del nostro boom immobiliare, che non ha assunto le caratteristiche degli altri paesi appunto che sono andati in crisi per questo, come per esempio la Spagna, quindi un calo diciamo fisiologico, o c'è qualcosa di più del fisiologico, dottoressa Tulipano? Diciamo che c'è un calo fisiologico legato proprio al fatto che c'è molta offerta e quindi questo ovviamente implica che un inquilino può scegliere e scegliere anche il prezzo migliore. Un po' è una difficoltà, insomma, in questo momento è difficile trovare un inquilino che possa garantirmi quel canone, che deve essere proporzionato ovviamente al suo stipendio e al suo reddito, altrimenti sarà presto moroso. In quali città italiane il regime fiscale preferito per chi affitta la tassa piatta, la cedolare secca? Dobbiamo dire che a distanza di 3 anni dalla sua introduzione la cedolare secca è un vero successo, gli italiani hanno imparato a conoscerla e la applicano nell'87% dei casi, quindi vuol dire quasi 9 contratti su 10 vengono stipulati con cedolare secca. Allora andiamo subito alla consulenza tecnica di Gianni Marchetti di Agefis, proprietari alla cassa. Entro fine mese, dicevamo in apertura, Marchetti, quanto si paga? La cedolare secca è un regime fiscale facoltativo che si sostanzia nel pagamento di un'imposta che oggi è prevista al 21% per i contratti di locazione a canone libero, mentre del 10% per i contratti a canone concordato. È un'imposta sostitutiva, come veniva ricordato nella scheda, sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, per cui si applica questa percentuale all'importo complessivo del canone annuo. In più, per i contratti in regime di cedolare secca non viene pagata nemmeno l'imposta di registro e l'imposta di bollo dovuta ordinariamente in sede di registrazione. Va precisato che possono essere oggetto di contratto a cedolare secca soltanto le unità immobiliari a destinazione abitativa, cioè le unità immobiliari accatastate nella categoria catastale da 1 a 11, con l'esclusione della 10 degli uffici. Benissimo. Può essere stipulata solo tra persone fisiche che non esercitano attività di impresa o attività professionale. Era una casa molto carina, senza soffitto, senza cucina, non si poteva entrarci dentro perché non c'era il pavimento. L'ho già raccontato altre volte questa canzone, me la cantava sempre mio papà per addormentarmi. Allora, è una canzone dei nostri, di quando noi eravamo piccoli. È vero. Eccoci ritrovate in diretta, oggi siamo tornate sul rapporto fra casa e fisco, quando la casa è nostra ma la stiamo affittando a qualcun altro. Si avvicina alla fine dell'anno, riparte il tour de force del fisco, meglio dei contribuenti chiamati a fare i conti con le tante scadenze fiscali di questo periodo, proprio il periodo dell'ingorgo, come dicevamo in apertura. Fra le scadenze c'è quella del 1° dicembre con la seconda rata della cedolare secca sugli affitti. Noi ne abbiamo approfittato anche per fare un punto sul mercato delle locazioni, per capire come stanno andando prezzi e canoni nelle principali città italiane. Con noi ci sono Isabella Tulipano di Solo Affitti e Gianni Marchetti di Agefis, l'associazione dei geometri fiscalisti. Tantissime le domande che ci stanno arrivando da parte vostra all'800 24 00 24. Avete scelto questo regime fiscale teoricamente più semplice, quello tradizionale, avete risparmiato, quali sono le scelte che avete messo sul piatto? Allora, abbiamo fatto l'ABC prima della cedolare secca con Gianni Marchetti, abbiamo ricordato in che misura si versa entro la fine di questo mese, Marchetti, ma la prima rata quando l'abbiamo versata, vogliamo ricordarlo? La prima rata è stata versata entro il 16 giugno in sede di pagamento della prima rata d'imposta eventualmente rateizzata. In che misura? La metà esatta, giusto? No. Le regole della cedolare secca sono le stesse previste per l'IRPEF, quindi le due rate di acconto sono divise nella misura del 40% per quanto riguarda la prima rata e nella misura del 60% per quanto riguarda la seconda rata. Allora, uno vuole pagare in un'unica soluzione, esatto, togliersi il problema, può o è impedito? Allora, innanzitutto è previsto dalla norma che se l'acconto complessivamente dovuto sia inferiore a 257,52 euro si può tranquillamente pagare in un'unica soluzione entro il 30 novembre, quest'anno il 1 dicembre. Va altresì precisato che l'acconto è dovuto soltanto se l'imposta dell'anno precedente era superiore a 51,65 euro. Allora, avevamo promesso ad Ines di farla intervenire non appena avremo ripreso la trasmissione, dalla provincia di Rieti, e peraltro si è aggiunta anche Natalia da Roma. Ines, benvenuta. Ines, dov'è? E nel frattempo si è stancata e ha deciso di mollare la presa. Adesso ha fatto male, la richiamiamo. Malissimo. Aveva promesso che avrebbe ascoltato. No, c'è Ines. C'è, dalle tempo. Si era un po' nascosta? No, noi non la sentiamo, quindi evidentemente è una problematica legata al collegamento telefonico. Andiamo a Natalia. O Natalia. Ecco, questa Natalia. Nata il giorno di Natale. Certo. Ci dica, Natalia. Sì, io volevo sapere se la cedolare secca si può applicare anche negli affitti brevi, settimanali, quindicinali, inferiori a un mese. Grazie, Natalia. Peraltro tanti messaggi anche su questo tema, se non ho visto male. Prima ho dato un'occhiata veloce. Isabella Tulipano, vuol rispondere lei? Sì, è possibile applicare la cedolare secca anche per questa tipologia di contratti. L'importante è appunto che parliamo di contratti abitativi a uso abitativo tra privati. Mm-hmm. Queste, insomma, diciamo, sono le condizioni. Dopodiché, in questo caso, spesso la scelta non viene ovviamente riportata in contratto, ma si va a scegliere direttamente in sede di dichiarazione dei redditi. Quando dichiaro il reddito percepito da locazione posso scegliere, certo, se assommarlo e quindi pagare con IRPEF o con cedolare secca. Ci deve essere un numero minimo di mesi o di settimane da dare in affitto? Semplicemente oppure... i contratti al di sotto dei 30 giorni non hanno obbligo di registrazione, quindi non c'è la scelta in sede di dichiarazione di registrazione, ma solo appunto quando vado a fare la mia dichiarazione dei redditi. Certo. Allora, registrazione del contratto. Gianni Marchetti, un aspetto importante naturalmente affinché si possa pagare con il regime fiscale della cedolare secca è che l'inquilino conosca che il proprietario ha fatto questa scelta, giusto? Altrimenti, se l'inquilino, chi abita appunto l'appartamento, la casa, non è a conoscenza di questo regime opzionato dal proprietario, la cedolare secca non ha validità. Vogliamo ricordarlo questo aspetto? Chi decide di avvalersi della cedolare secca ha l'obbligo di comunicarlo preventivamente all'inquilino con una lettera raccomandata. Tra l'altro, a questo proposito va chiarito che l'Agenzia delle Entrate non ritiene valida la raccomandata a mano, anche se è controfirmata dall'inquilino, deve essere necessariamente una raccomandata spedita col servizio postale. La comunicazione deve essere preventiva e comunque deve essere inoltrata prima della registrazione del contratto, nei 30 giorni, entro 30 giorni successivi alla stipula dello stesso. Perché è così importante che l'inquilino lo sappia il tipo di regime fiscale che sceglie il proprietario? Perché con questa comunicazione il locatore dichiara di rinunciare alla facoltà di chiedere gli aggiornamenti del canone, quindi sia quelli, soprattutto quelli legati all'inceista, quindi praticamente con questa comunicazione il proprietario comunica all'inquilino che il canone concordato rimarrà fisso per tutta la durata. Insomma, patti chiari, amicizia lunga. Esatto, ma soprattutto è conveniente per entrambe le parti, no Isabella Turipano? È conveniente per il proprietario che paga un fisco più leggero e per chi abita la casa che non ha il canone che aumenta nel corso dei mesi dell'affitto. Insomma, sì, diciamo che in assoluto la cedolare secca ovviamente comporta una minore pressione fiscale, quindi in questo è conveniente. L'unica cosa che noi diciamo consigliamo ai proprietari di solito è di valutare quante sono le sue detrazioni a livello IRPEF, perché le detrazioni IRPEF non si possono scaricare dall'importo di cedolare secca. Quindi se io fossi a credito per esempio di IRPEF, forse comunque mi converrebbe applicare l'IRPEF, perché a quel punto potrei scalare da lì l'importo che devo pagare sul reddito da locazione. Se invece diciamo magari, non so, l'unico reddito aggiuntivo che una persona percepisce, quello che arriva da una proprietà, non ha altre spese da scaricare, gli conviene proprio optare per questo regime. Allora andiamo ad Ines, l'abbiamo ripescata forse, sì, che dici? Io proverei a sentirla. Ines, buongiorno. Sono qua, buongiorno. Dove era andata Ines? Buongiorno. Ci dico. Non si può dire, non si può dire. Allora andiamo. Sì. Allora io volevo sapere qualcosa in più sulla cedolare secca, perché non ho capito bene la tassazione o quantomeno quello che eventualmente adesso c'è da versare a novembre. Noi avevamo un contratto normale, l'abbiamo trasformato quest'anno a marzo in passata cedolare secca alla scadenza annuale. Adesso io vorrei sapere a novembre o dicembre quello che devo versare qualcosa a fronte di per la tassazione di questo appartamento. A giugno lei non ha versato nulla a titolo di acconto prossimo. Ah beh, certo, giustamente, no, perché acconto, no, perché io a marzo abbiamo pagato quello relativo all'affitto normale come in vecchia maniera per l'anno 2012. Allora, aspetti lì Ines, Marchetti, certo. Marchetti, la trasformazione, diciamo, l'opzione del regime fiscale è stata esercitata, diciamo così, a marzo, no? A marzo questi signori hanno deciso che avrebbero optato per la cedolare secca. Per cui da marzo a giugno, per questi mesi qua, non c'è da versare un acconto in giugno, non c'era da versare? No, no, la signora Ines non dovrà versare nulla quest'anno, perché nel primo anno di applicazione, nel primo anno di esercizio dell'opzione per la cedolare secca non si versa acconto, perché manca la base imponibile di riferimento, nel senso che io l'acconto lo dovrei calcolare applicando il 95% dell'imposta dovuta nell'anno precedente, ma l'anno precedente il contratto era soggetto a IRPEF e quindi come tale non manca la base imponibile. Quindi quest'anno la signora Ines non dovrà versare nulla a titolo di acconto per la cedolare secca, ma verserà tutto a saldo il prossimo anno per il periodo marzo-dicembre. Credo che questo valga anche più o meno, anche se i mesi sono diversi, per Daniele dalla provincia di Firenze, che pesco al volo. Daniele, benvenuto. Sì, buongiorno. Sì. Ho affittato, sì, credo che la risposta valga anche per me, quella che hanno appena detto. Un nuovo affitto da decorrenza 1° settembre. Le avrei chiesto se per 4 mesi devo pagare un acconto, perché comunque quest'anno percepisco 4 mesi di affitto. Certo, Marchetti, allora rinvia tutto l'anno prossimo, Daniele. Sì, sì, il primo anno di esercizio dell'opzione non prevede appunto il pagamento dell'acconto, perché come dicevo prima manca la base imponibile per fare il calcolo. Allora, cedolare secca o IRPEF tradizionale, c'è un problema che riguarda moltissimi proprietari, quelli che purtroppo non riscuotono il canone d'affitto da molti mesi, quindi inquilini inadempienti, insolventi, insomma tanti problemi che conosciamo bene sul nostro territorio. Però Marchetti, da quello che capisco, questo tributo o IRPEF o cedolare secca deve essere versato a prescindere dall'incasso che i proprietari hanno. Corretto, sì. Il testo unico dell'imposta sui redditi prevede appunto che il reddito che derivante dalle locazioni di fabbricati debba essere dichiarato a prescindere dall'effettivo incasso, nel senso che l'unica situazione che fa venire meno a questa previsione è la dichiarazione giurisdizionale dello sfratto per morosità del conduttore. Quindi qualora ci fosse un atto formale di intimazione di sfratto, ecco, in quel caso appunto dal punto... Intanto che non c'è questo provvedimento del giudice, io sono costretto a dichiarare il reddito a prescindere dall'effettiva percezione. Quando poi ci sarà la sentenza del giudice, io maturerò un credito d'imposta relativamente a quanto ho pagato sui canoni. E nel frattempo avrò sopportato anche tutte le spese legali, insomma tutte le rogne che sono legate tante. Naturalmente a... Diciamo che purtroppo con i tempi della giustizia, della giustizia civile italiana... Ecco, è un tema che è su tutte le pagine dei giornali oggi, peraltro, che come dire, per sbloccarsi la paralisi della giustizia civile avrebbe bisogno di bloccare tutti i procedimenti in corso almeno per un anno. Vorrei andare da Giovanni. Andiamo. Che ci sta aspettando, chiama da Roma. Buongiorno Giovanni, benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. Io cortesemente vorrei chiedere se, avendo un appartamento affittato da più di 10 anni ad equo canone, posso optare per la cedolare secca. Giovanni, grazie. Allora, diciamo che sì, ad un certo punto si può decidere, no, di cambiare regime fiscale. Isabella Turipano, qual è il contratto d'affitto che deve essere stipulato però fra proprietario ed inquilino? Sì, diciamo che il contratto del signore molto probabilmente è stato comunque trasformato, tra virgolette, in un 4+4 libero. Quindi, in corrispondenza della prossima scadenza annuale, è possibile scegliere se rimanere in regime IRPEF o appunto applicare la cedolare secca. In questo caso va comunicato comunque all'Agenzia delle Entrate con la compilazione del modello RLI e non dovrà più pagare l'imposta di registro come ha fatto invece per questi 10 anni. Certo. Senta, sempre dal vostro rapporto sullo stato dell'arte degli affitti italiani del 2014, quali sono i trend più importanti dal punto di vista dei contratti più utilizzati dai proprietari? Sì, diciamo che la cedolare secca sta un po' tirando la volata anche all'applicazione dei contratti a canone concordato. Ecco, quindi, spieghiamo allora bene che cosa sono, che così, esatto, facciamo un brava. Po' di ABC per perché noi. Lo chiedono, sì. Esatto. Allora, diciamo che i contratti a canone concordato prevedono appunto l'applicazione non di un canone libero, ma di un canone che viene calcolato sulla base di quelli che sono gli accordi territoriali stipulati a livello comunale tra le principali associazioni di categoria degli inquilini e dei proprietari. Questo è possibile solo nei comuni capoluogo e in quelli che sono all'interno di un elenco che ormai è datato 2004, considerati comuni ad alta densità abitativa. Quindi per esempio in una località di provincia non sarebbe possibile? Non tutte, bisogna andare a controllare questo elenco. Cioè e teoricamente è possibile ma non lo dove fanno. Dove lo trovo questo elenco? Questo elenco è del CIPE, insomma si trova facilmente e io devo andare a controllare la mia provincia e il mio comune, quindi diciamo in comuni comunque abbastanza grandi con appunto una popolazione abbastanza numerosa è possibile. Spesso capita però che soprattutto nei piccoli comuni questi accordi non siano mai stati stipulati e in questo caso quindi io devo prendere come riferimento l'accordo stipulato nel comune più vicino e demograficamente più simile al mio, oppure questi accordi sono stati effettivamente stipulati come il famoso caso di Milano nel 1999 in seguito all'introduzione della normativa e ovviamente oggi con sono tutto l'aumento che abbiamo fatto diciamo così. No, tanto sempre per continuare sull'onda di questo ABC, che cosa possono prevedere? Qual è, non lo so, il canone medio che deve essere pagato in una determinata zona, in un determinato quartiere? Molti ascoltatori sollevano la questione anche della densità abitativa. Sì, diciamo che appunto l'elenco non viene rivisto nel 2004, quindi può essere che qualche comune che un tempo non aveva questa densità abitativa oggi effettivamente rientri in questo elenco. La questione è che ogni accordo prevede una suddivisione in zona geografica, quindi normalmente centrale, periferica, semicentrale, eccetera, l'individuazione di una serie di parametri che deve avere l'immobile, quindi se è stato ristrutturato di recente, se ha il riscaldamento autonomo centralizzato, eccetera, le dotazioni, e poi prevede un canone minimo e massimo che io posso applicare a seconda appunto se il mio immobile è in una fascia minima, media o massima, e lo moltiplico per i metri quadri, quindi spesso sono gli immobili effettivamente con abbastanza grandi a risultare effettivamente interessanti. A Bologna l'accordo è stato rivisto anche di recente, Torino, Roma, ci sono città in cui questi contratti sono effettivamente convenienti, perché oggi il canone non è col fatto che registriamo in 5 anni dei cali, diciamo che tra quello libero e quello concordato c'è poca differenza, quindi applicando un contratto a canone concordato posso avere il vantaggio di una cedolare secca per esempio al 10 o di una deduzione IRPEF più consistente. A Milano preferiscono invece andare con il libero, naturalmente poi con Expo chissà qua quanto voleranno i canoni d'affitto per tutti coloro che verranno a Milano temporaneamente, insomma. Non ci voglio pensare, ma dimmi se vuoi andare nella provincia di Mantova oppure nella provincia di Cuneo. Andrei a Cuneo perché brava, forse Rinaldo Pannacotta, aspetta un po'. Bunet, eccetera. Rinaldo, buongiorno. Ah, buongiorno a voi. Però anche a Mantova c'era una buona cucina. Rinaldo, veloce perché abbiamo un minuto. Buongiorno, no, ma velocissimo, anche perché io vi sentivo da in macchina e mi è venuto un colpo quando avete parlato di scadenze di F24, perché io ho un piccolo alloggetto affittato, ma non ho praticamente mai pagato F24, perché facendo il 7.30 il commercialista mi dice che lo Rinaldo, stia tranquillo, faccia che un bel sospiro, anche di pancia. Ha pagato tutto quello che doveva pagare, insomma, se non ha opzionato la cedolare secca rimane attualmente con regime tradizionale. Marchetti, Rinaldo, lo tranquillizziamo, lo mandiamo da voi da Agefis, che siete anche là vicino, va. No, se porta la panna cotta. Se va da un nostro associato, un geometra fiscalista, troverà tutte le situazioni del caso. Però può stare tranquilla, lui non scade nulla alla fine del... Perché con il modello 730 è previsto che tutte le imposte che vengono liquidate in sede di dichiarazione vengano trattenute direttamente dal datore. 5 secondi, Marchetti, se dall'opzione cedolare secca si può tornare indietro a metà anno così e opzionare il regime tradizionale? No, a metà anno no, dall'opzione si può tornare indietro in occasione delle scadenze delle annualità successive. Ah, ecco. Perché io alla scadenza delle varie annualità del contratto posso decidere di revocare l'opzione. Però si può revocare. Posso anche decidere di revocarla e successivamente a un'altra scadenza annuale opzionare di nuovo regime. Ottimo, per tutte le domande che sono rimaste indietro, cuoredenari@radio24.it, a Jefis oggi li tempesteremo con tutti i vostri quesiti. Agefis, anzi, grazie anche ad Isabella Tulipano per essere stata con noi. Grazie a voi, Marchetti, scusate la voce. Buona giornata, a presto. Grazie a lei. Noi torniamo domani, che dici? Vi aspettiamo qui domani, come sempre, a partire dalle 11. Buona giornata.